Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM 236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Non ho detto gioia. Matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo afflitti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, bolletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori di misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Beh, caro Parenzo, ci mancava il grande ritorno alla Camera dei Deputati di Gianluca Buonanno, amico mio, mancava un altro pezzo di questa meravigliosa cavalcata verso l'Europa di Gianluca Buonanno. Senti cosa è successo alla Camera dei Deputati oggi, non fare quella voce affaticata, quella voce stanca già alle 6:30, devi essere carico, adrenalinico, dobbiamo fare 2 ore e mezzo, sei già stanco alle 6:30, sei già stanco, carico con la voce, carico, Buonanno. Vuole intervenire deputato Buonanno, prego. Grazie signor Presidente, no, in merito a questi ordini del giorno, essendo anche stato eletto da poco eurodeputato, cioè l'Europa ancora una volta fa tutto il contrario di tutto, ecco, simboleggiare l'Europa come la vedo io, signor Presidente, è come una grossa palla l'Europa che ci tiene per le catene, cioè secondo me, vedendo anche, questa è l'Europa. La smetta, tolga questa cosa, ma la smetta, intervengano i commessi. Veramente non sentivamo la mancanza. Matti proprio tutti, buoni solamente a strofinarsi dentro ai letti, buoni di memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti. Roteava una catena con una palla, per dire l'Europa. L'Europa che è una palla al piede, roteava. Ci sono delle persone, caro Parenzo, che e se la per questa cosa quanto costa al mese? Ma come costa per qualsiasi altro per deputato? Per tutti questi giochini che lui fa ogni volta, vabbè, quanto ci costa? Ma cerca di dire qualcosa di diverso, dici sempre le stesse cose. Quanto ci costa al mese? Quanto ci costa? Usa le istituzioni come un parco giochi, quindi sai. Vabbè, allora, a parte la vicenda Buonanno, c'è gente che se la prende con noi. Lì hanno ragione. Ma che hanno ragione? Ho rimandato in onda un'intervista. Ma che cosa? Augias, lasciamo perdere. Ne parleremo dopo. Ha scritto un articolo, una risposta che pare molto sensata, giusta, a uno che. Ma tu sei completamente fuori di testa. Tu hai intervistato ragione. Più volte Yonghi Lavarini, il fascista Yonghi Lavarini, pisciandoti sotto dalle risate. Dunque, vergognati di questa cosa qua. Vergognati, non dire queste cose qui. Dopodiché, l'ho sempre attaccato in tutte le interviste. E anch'io, dopodiché non io. Non è che l'ho lasciato pascolare. Io non l'ho lasciato pascolare, l'ho rimandato. Lui e quell'altro ascoltatore maledetto. Senti, io so che tu hai un tuo recinto che devi difendere dagli attacchi che ricevi. No, io non ho recinti, ho il buon gusto, siccome con Mauro Damante, le trae nel merito. Ma lascia perdere Mauro Damante. Non nulla, perché ho detto più volte ridatemi che quello è schifo. Devi fermarti un attimo. Far parlare quello schifo, è ovvio che io mi arrabbio e lo ma attacco. Ma che ti arrabbi? Ma certo, fai bene ad attaccarlo, ma che c'entra? Yonghi Lavarini, sentiamo un pezzetto di Yonghi Lavarini. Non neghiamo la realtà. Come esiste una finanza cattolica, esiste evidentemente anche una finanza ebraica. Ma è lo stesso ragionamento di quel criminale di Hitler che ha sterminato un intero popolo. Beh, adesso gli ebrei sono perseguitati da 3.000 anni da tutti i popoli del mondo. Ma non le sembra che in Germania con 6 milioni di morti ci siano andati pesanti? Sono tedeschi, sono precisi, ben organizzati. Ci vuoi dire che non condanni l'olocausto? La storia la scrivono i vincitori. Allora, è ovvio, l'ho preciso, per quegli avvocati, per quei professori, per quei maestrini, per lo stesso Augias ovviamente, che non hanno capito. È evidente che io non sono d'accordo nemmeno con mezza parola nemmeno con un centesimo delle parole del signor Yonghi Lavarini. Ridevamo, come dire, del personaggio, ma è Yonghi Lavarini, non è Hitler, è Yonghi Lavarini. Ma no, io non ridevo veramente. Io ridevo, ma ridevo in a parte ridevi, che ridevi anche tu. Io non ridevo. Guarda, non c'è tempo adesso, parleremo più avanti. Della legge poi, sì, poi parleremo più avanti, sì, di questo, non ti preoccupare. Poi rimetterò in onda le parti in cui ridevi di Yonghi Lavarini, non ti preoccupare, guarda. Non ti preoccupare, le ho trovate. Ho sempre detto che va trattato come un caso psichiatrico, ecco, e va applicata la legge Mancino, però. Vabbè. A differenza tua che invece gli carezzi il pelo. È un dettaglio, io non carezzo no, il pelo. Ma quale dettaglio? È un dettaglio, e se dici una cosa del genere dici un'infamia, perché io non carezzo il pelo a nessuno, capito? Beh, ti piace quando dici stronzate. Ma... come a te, esattamente come a te. No, sì, perché sì. Io dico che da quando? Da un anno Mancino. Da un anno a questa parte non ti piace. Io quando dici dico che deve intervenire la legge Mancino. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere niente. Sì, anzi. Sì, va bene. Paolo Virzì critica il Movimento 5 Stelle perché ha vinto, capito? Paolo Virzì, regista, critica il Movimento 5 Stelle perché di Livorno, stai tranquillo, devi stare calmo e tranquillo. Paolo Virzì, regista, critica il Movimento 5 Stelle perché ha vinto nella sua Livorno. Dice, vabbè, questo Nogarin non parla l'italiano, non dà risposte. Il vincitore l'ho visto collegato con Sky via auricolare. Purtroppo mi ha fatto un po' soffrire perché ho sentito, a parte un straziante combattimento con la lingua italiana, ho visto che non riusciva a rispondere a nessuna delle domande che pure gentilmente, in maniera, devo dire, domande anche molto semplici, gli ponevano dallo studio. Si è rifiutato, si è strappato anche nervosamente l'auricolare, non è un bel segno, non ha fatto fare una bella figura alla città. Oh, Paolo Virzì ha già dato il suo verdetto, non parla italiano, eccetera eccetera. Poi dice dovrà alzare il culetto e andare a convincere i migliori a fare gli assessori. Ma Virzì, calma, questo è appena arrivato, facciamogli scegliere gli assessori con il metodo che vuole, poi uno giudica, no, la città dopo 5 anni giudicherà. Sì, io capisco che dopo 70 anni di dominio dei comunisti uno possa essere un po' disturbato, un po' così disorientato, però... Mi auguro davvero per il bene della città che si renda conto del compito enorme che ha in questo momento, cioè che deve governare, deve includere. Mi fa sorridere quando lo sento dire come programma di governo che farà un bando per chi vuole fare l'assessore, mandi la mail col curriculum. Non è così che si governa la città. Dovrà alzare il suo bravo culetto di ragazzo simpatico di Castiglioncello e andare a bussare alle porte e convincere le eccellenze, le persone migliori che non avranno certo voglia di fare l'assessore. Oh ragazzi, c'è anche Briatore che dice che tante cose dice, ne dice una in particolare che è questa: serve una dittatura a termine, una dittatura a termine, cioè uno che decide, per questo gli piace Renzi, uno che decide tutto, ovviamente non dice dittatura, però pronuncia la parola dittatura. Matteo Renzi sembra voler cambiare anche in questo, no? Mi pare che insomma voglia decidere, fare, lei che ne dice? Per adesso non è cambiato. Finché non abbiamo una dittatura a termine, no? Come c'è in America, credo che in America è il classico esempio che Obama è presidente, Obama comanda e poi va al congresso, presenta le cose, poi possono dire sì o no, ma non possono stravolgere il tutto. In Italia il vero problema è questo, che non c'è nessuno che ha il potere esecutivo. Collegamento con Bruxelles, dove abbiamo il capo delegazione dei parlamentari europei del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao da Alcamo, dove è arrivato fino a Bergamo facendo l'autostop e poi con un aereo. Buonasera Corrao. Ciao, buonasera, grazie. Come andiamo? Andiamo bene, chiaramente a Bruxelles piove. Vabbè, quello. Ci siamo levati via l'Afa che c'era in pianura padana ieri. Certo, da Alcamo a Bruxelles con la pioggia. Andiamo. Cominciamo bene, no, Corrao? Cominciamo bene. Ma guarda, col caldo che faceva ieri sì. A Milano, ti dico che non mi dispiace neanche tanto che piove oggi a Bruxelles. Anzi, allora, dovete sapere che Corrao ha 30 anni, fa l'avvocato, ha iniziato a fare l'avvocato ad Alcamo, adesso mi sa che ci metterà un po' di tempo, sospenderà per un po' di tempo il suo lavoro di avvocato. Si è fatto no, ieri... Manca. o no? Ti correggo, io sono in attesa dell'esito degli esami abilitativi. Vabbè, tanto uguale. Ho fatto gli iscritti a dicembre e sono in attesa dell'esito. Ecco, facciamo in modo di eliminare questi esami, questi ordini professionali, va, questi esami di abilitazione d'avvocato che sono abbuffonata. O no? Non sarebbe una cattiva idea. Ecco, bravo, ti ho dato subito un'idea. Da Bruxelles facciamo una bella battaglia per togliere l'esame di abilitazione d'avvocato e tutte queste robe qua. Va bene. Non farli uguali in tutta Europa. Sì, beh, insomma, con un po' di un po', è un po' diverso in altri paesi d'Europa. Comunque, Corrado, si è fatto, Parenzo, devi sapere, tu che non sai mai nulla, si è fatto in autostop fino a Bergamo, pubblicando tutte le foto e dopo ho preso lei. Non è che puoi fare ogni volta così, però, per andare a Bruxelles, Corrado. No. Perché c'era da dire una cosa, è praticamente si è chiusa la campagna elettorale per il ballottaggio il venerdì sera . E quindi io avrei avuto, e io ero lì chiaramente a sostenere Patrizio che è diventato sindaco di Bagheria . E quindi sono partito la stessa notte per arrivare qui lunedì mattina, quindi ho utilizzato, diciamo, il mio ultimo fine settimana libero per viaggiare in Italia e conoscere gli attivisti. Senti, ma no, lì no. Quante volte, con chi dormirai lì? Voi che dividete sempre le stanze, anche a Roma avete sempre all'inizio della legislatura dividevate le stanze, i tuoi colleghi in tre, in quattro, le camere nella stessa casa. Datemi almeno il tempo di capire chi russa, chi è simpatico, chi è antipatico, e poi scegliamo. No, non lo so. Adesso ma che fai? Hai preso una casa, devi dividere la casa con altri. Voi di solito fate così. Dipende, non lo so, adesso valutiamo un attimino i prezzi, le situazioni, se va bene, cioè, ancora dobbiamo decidere. Ecco, ma lo stipendio, a quanto ve lo diminuite tutti a 2.500 euro anche lì? No, penso che non puoi vivere qua con 1.500 euro, perché comunque... No, 2.500 dico, non puoi vivere con 2.500. No, penso che non ce la facciamo, anche perché non avremmo diritto ai rimborsi, come fa a lavorare, non ce la fai... E dunque lo stipendio pieno, prenderete lo stipendio pieno là? No, rinunceremo a parte della diaria, sicuramente, anche perché lo stipendio, l'indennità di base di un parlamentare europeo è molto di meno rispetto all'indennità di... No, è come quella italiana, è stata parificata... No, non è parificata, è stata parificata da tutti gli stati d'Europa. Ma da non tutti è gli stati d'Europa, sì, d'accordo, ma è più o meno simile, sarà... No, è un po' meno. Leggermente meno. No, comunque... €11.000, se non ricordo male. In Italia 11.000 euro, quindi è nettamente meno, considerato il fatto che stai molto più lontano. Diciamo che 7.000 più i contratti per gli addetti stampa, eccetera, che vengono fatti direttamente dal Parlamento europeo, più i rimborsi. Dunque prenderete l'indennità la prenderete per intero, diciamo, intendiamoci su questa cosa. Sì, l'indennità la prendiamo per intero, anche perché se no ho detto, cioè, per qualche cosa qua finisce che ti devi stringere la corda e non puoi lavorare. Poi il resto vediamo un attimino la diaria, il coso dei collaboratori, chiaramente ho conosciuto i collaboratori. No, ditelo con felicità e orgoglio, non c'è bisogno di essere sempre dei frati francescani, basta non rubare 7.000 euro, stipendio giusto di un deputato europeo, e che diamine, ditelo, ma senza fare tutta questa roba. Cioè, lo stipendio da deputato europeo è una cosa corretta o bisogna intervenire? Certo che è corretto. Corrao. No, sì, non lo so, cioè, per se e prima, come lo sai? Tra qualche mese ti potrò dire se è una cifra giusta o una cifra non giusta, anche se non ho mai vissuto a Bruxelles, quindi non conosco materialmente quali sono i costi di per vivere per un europarlamentare. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Beh, cari amici, c'è un fantastico rap di Giovanardi che faremo ascoltare più avanti, dedicato a Fedez, contro le droghe leggere, contro ovviamente tutte le droghe. Mitico Giovanardi che si esibisce in questo rap. A proposito, caro Corrao da Alcamo, mi segnalano che c'è un Ryanair fantastico da Trapani-Bergamo e anche forse anche Trapani-Bruxelles direttamente, o no? No, ragazzi, c'è Trapani in Bruxelles che non mi costava niente, infatti io guarda... Hai fatto una cazzata a questo turno? No, ascolta, non mi dite che non siamo di parola, perché io avevo promesso ai ragazzi di Pantelleria, un'altra campagna elettorale, che se fossi stato detto sarei andato su a passaggi, e alla fine l'ho rinegoziato un po', perché alla fine ho detto arrivo a Milano e poi mi prendo un aereo, perché sennò non sarei arrivato in tempo. Allora, però, Ignazio Corrao è capo della delegazione dei parlamentari europei del Movimento 5 Stelle ed è anche drammaticamente somigliante a D'Artagnan. Insomma, una specie di baffetto con i capelli lunghi, sì, è vero. Un po' sì. Senti una cosa, ma a proposito del signor Farage, è un incubo, lo so. Però, tu che cosa hai votato prima di votare 5 Stelle? io che cosa ho votato prima di votare 5 Stelle? Io stavo pensando di non votare più prima di. No, di ma prima che votavi? Stelle. Avrei votato una volta in vita tua, no? Cioè 30 anni. No, ho votato roba diversa. Cioè, vabbè, dillo, mica. M'hanno deluso, tipo Italia dei Valori, non neanche mi ricordo. Comunque, che ne so, Ingroia, che ne so. No, Ingroia no. Ingroia no, perché già c'era. Neanche la possibilità, quando si è candidato già c'eravamo noi. Già c'era Grillo, è vero. Italia dei Valori prima, che ne so, hai votato la sinistra, hai votato quello che era il PD. No, avevo votato Italia dei Valori. Sì, credo di aver votato soltanto Italia dei Valori, e forse una volta avrò votato a 18 anni i radicali. I radicali, poi Italia dei Valori. Vabbè. Che cosa c'entra? Dunque, con Farage non c'entrate niente, dai, su. Questo Farage che è dipinto come una sorta. Ragazzi, voi, allora, ora c'è una questione di fondo che va affrontata su questa discussione. Cioè? È tutta una storia che si è montata. Intanto, questo Farage non lo conosceva nessuno fino a prima che ci parlava. No, noi lo conosciamo benissimo, guarda. Sì, l'abbiamo invitato. Italia, no, in Italia nessuno, tanto. È vero, in Italia nessuno, sì. E poi un'altra cosa, cioè qua non è assolutamente vero che abbiamo fatto il gruppo Farage, noi faremo una cosa che non ha mai fatto nessuno, cioè faremo decidere i cittadini con una cosa. No, ma no, online. Però le alleanze non si possono decidere sul web. Ma noi vogliamo cambiare assolutamente il modo di fare politica. Ho capito, Corrado, però non si possono. Ignazio, scusa, non è che voi potete decidere se allearvi o no al signor Farage con un clic sul web. Ascolta, noi non è che qua decidiamo se allearsi o no, noi mettiamo delle opzioni e facciamo decidere ai cittadini, gli diamo la possibilità di informarsi, quindi vabbè, di vedere. Ma fosse per te, con chi andresti insieme al Parlamento europeo? Fosse per me, e io l'ho detto un sacco di volte, intanto che noi già abbiamo fatto l'alleanza più grande che si sia mai registrata in Europa, che è l'alleanza con i cittadini. Vabbè, questa è una stronzata, che vuol dire alleanza con i cittadini, dai? È una parola d'ordine così. Ma scusami. Senti una cosa, ma volete aprire il Parlamento europeo come quello italiano, come una scatoletta di sardine, pure il Parlamento europeo, uno dei primi slogan? Questo lo apriamo ancora di più, il Parlamento italiano. Cioè aprite molto di più quello italiano, vabbè, non l'avete aperto tantissimo, avete restituito i soldi del finanziamento pubblico, e quello va bene, però adesso non stiamo a fare qui. Abbiamo rimesso al centro dell'attenzione dei giovani quello che succede all'interno delle commissioni. Vabbè, volete aprire anche il Parlamento europeo come una scatola di sardine, molto di più. Sì, no, ma intanto faremo una cosa che non è mai stata fatta, cioè? Metteremo l'attenzione di quello che succede all'interno del Parlamento europeo. Ma già c'è. Ma non ci veniva nessuno, ragazzi, c'è mamma, io a Zanicchi, Mastella, ma chi sapeva che cosa succedeva al Parlamento europeo? Ora vedrete. Ma avete pure la Spinelli che ci ha ripensato, hai visto? Sì, ma ben venga chi vuole lavorare per il bene della nostra nazione. Cioè io non Senti, è ma tu credi che credi che il Bilderberg governi il mondo? Non siamo qua a fare complotti, noi siamo qua a lavorare per alcuni tuoi colleghi hanno sostenuto che il Bilderberg, i tuoi colleghi al Parlamento italiano e credo anche un paio al Parlamento neoparlamentare europeo, sostengono che il Bilderberg è il centro dei complotti mondiali. Potrebbe esserlo, però io sono più concentrato a risolvere i problemi di agricoltura e pesca. Vabbè, quello ma come potrebbe esserlo? Qualcuno dice anche addirittura dietro il Bilderberg ci sono le stragi in Italia, Corrao. Allora, queste sono, ragazzi, la dietrologia. Voi chiaramente fate conduttori di radio e vi piace. Non è che lo diciamo noi. Sono cose che si dicono, io non è lo che dicono i tuoi. Ma ragazzi, ma non faccio io l'opinionista di dietrologia, di complotti mondiali. Vabbè, dei complotti non te ne frega niente. Dei complotti non te ne frega. Io devo risolvere i problemi della gente che c'ha fame. Ma per esempio, secondo te sì, però sei anche un parlamentare europeo, dunque uno può avere un ruolo anche per capire come vanno le cose nel mondo. Per esempio, secondo te la finanza ebraica ha un ruolo? Che ne so, ma no, ma ti giuro, qualcuno l'ha detto dei tuoi. Ragazzi, ma siete simpaticissimi. quando farò l'opinionista, magari parleremo della finanza ebraica e della Bilderberg, però che faccio il parlamentare europeo, parlerò dei problemi che riguardano appunto i cittadini italiani, e sono tanti, e sono che essere più importante soffermarsi su quello. Devo dire la verità che Corrao ha già preso le misure ai giornalisti. Allora ti faccio un'altra domanda. Sui Marò. Perché io sono convinto che ci sia troppo patriottismo nella vicenda dei Marò, cioè non ci sia un grande rispetto per esempio per l'India. Secondo te devono tornare oppure l'India deve giudicarli perché hanno, in fin dei conti, poi hanno ammazzato due persone, anche se bisogna verificare alcune cose? Ma ragazzi, non lo so, io credo che debba essere comunque seguite le giuste norme internazionali. Cioè l'India ha le sue ragioni o no? Questo ti voglio chiedere. No, l'importante è che venga fatta chiarezza, ma quello che venga fatta chiarezza. Parti invertite, ma a parti invertite probabilmente sarebbe accaduta la stessa cosa, no? Io spero che questi ragazzi tornino in Italia e se sono innocenti vengano, ritornano in libertà e possono parlare alle loro famiglie. Cioè è chiaro questo. Cioè vuoi che debbano essere giudicati in Italia? Cioè vorresti che fossero giudicati in Italia? Sì, sarebbe auspicabile, senza dubbio. La pensi come la Meloni, tutti questi qua? Cioè, no, io penso che Forza Italia. No, raga, non mi vedete che non c'entra niente con la Meloni, ma me ne frega proprio. Cioè, non abbiamo veramente niente da dividere. Scusa, tu con quei baffetti là, con quell'atteggiamento un po' smart da ragazzino, giustamente a 30 anni, ma per esempio le canne te le sei mai fatte? Sì. Un po'? Le canne qualche volta te le sei fatte? I don't understand, eh? No. Qualcuna sì. No, assolutamente no. Ma guarda che non è mica un reato, eh. Cioè, come non è un reato? Certo che è un reato. No. Farsi le canne? No, ma non è un reato, dai. Sì, sì, sì. Ma quale sì? Ma assolutamente. Ma sarebbe penalizzato, però comunque non è che è regolare, cioè stiamo parlando, ragazzi. Ma come non è regolare? È regolarissimo. Parenzo se ne fa tantissime di canne. No, tantissime. Fai tantissime. Tantissime è un coso. Chi è che si fa un sacco di canne? Chi? Sapete chi si fa un sacco di canne? Chi? Tutti quelli che ci hanno preso le decisioni. Tutti quelli che hanno preso decisioni per gli italiani negli ultimi 20 anni. Ah, tutti drogati, secondo te. E sapete qual è il problema? Che si fanno un sacco di canne, però non hanno deciso di liberalizzare l'erba. Quindi hanno lasciato pure i soldi dell'erba in mano alla criminalità organizzata. Legalizzavano e si faceva un po' di lavoro. Legalizzavano, no? Si dice. Grazie, Corrao. Prego, prego. La zanzara stronza. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. E la patonza deve girare. La zanzara danza. Io sono pietanza per la zanzara nella stanza. Lei russa e non si sveglia mai. Lei russa e sogna i fatti suoi. Io all'età di 17 anni che sono andato in Svizzera fino a 26, 9 anni. E lì facevo il playboy, diciamo, andavo con chi ci stava e ne sono state centinaia e centinaia. Però era normale, perché sicuramente che tutti i giovani lo faranno, ma lo devono fare quando sono giovani. Quando invece hanno costruito una famiglia e hanno dei figli, allora bisogna avere sia il rispetto della moglie sia il rispetto dei figli. Sulla panza. Che stronza la zanza, che ronza e va a giro nella stanza. Ieri sera alla Zanzara c'è stato un epico scontro. Erano circa le 20:30 tra Vittorio Sgarbi e un ascoltatore. L'ascoltatore si chiama Edoardo, che ha esordito in questo modo. Edoardo da Roma, Edoardo. Pronto? Dai. Sgarbi ha fatto tanto il garantista, ci ha fatto due coglioni così con la morale cristiana. Attenzione, non solo Galan deve andare in galera, ma il Gabbi, che è il primo ladro, accusa altri di essere ladri senza ancora aspettare quella sentenza della magistratura a lui tanto cara. È stato condannato per assenteismo, documenti falsi, cioè assenteismo è rubare, ti rubi i soldi pubblici perché non lavori quando sei pagato per lavorare. A questo punto interviene il professore. Hai definito Sgarbi un grande ladro, Vittorio? Quella è una testa di cazzo in compenso. Ladro di che? Di che cosa ho rubato? Ladro è lui. Lui è un ladro. Io non ho rubato nulla a nessuno. Dica che cosa e come. Testa di cazzo. E ladro lui. Dica che cosa. Vado, ha rubato i soldi pubblici non andando a lavoro, è stato condannato. Ma non è un problema. Cioè, rubare è umano. Per me va bene, ma basta e poi non va a rompere i coglioni a persone che non è stato ancora attestato che hanno rubato. E la zanza. Era un'aspettativa senza segni. Questa è una testa di cazzo che dice cose insensate. Io ero un'aspettativa senza segni e un tribunale criminale mi ha condannato a 6 mesi perché ero un'aspettativa senza segni. Quindi non ho rubato una lira. Testa di cazzo, ladro lui. Vado a dimostrarlo. Il tribunale ha sbagliato secco perché ero un'aspettativa senza segni. Senza segni, faccia di merda. Ladro tu. La zanzara stronza. che gira, che io come privato cittadino, no? Che è anche Sgarbi il privato cittadino, non è che può sindacare sulla magistratura. La magistratura sta là per decidere al posto di chi non ha gli strumenti per decidere, cioè noi fanno le indagini. Il primo dei ladri è una forma retorica che ho usato, io dico un ladro, poi io personalmente io voglio anche bene a Sgarbi, e se mi vuole bene in tribunale non voglio dimostrarlo, per rubare oppure qualcosa da rubare, vediamo cosa dimostra. Mandate a fare il culo queste teste di cazzo. Mi nascondo con le lenzuola. Allora, ovviamente siamo andati a controllare cose che io già sapevo, e Sgarbi è stato, ma è una cosa ultra nota, nel 96 condannato in via definitiva per truffa aggravata e continuata e falso ai danni dello Stato, 6 mesi, 10 giorni e 700.000 euro di multa all'epoca, caro Parenzo, tu te lo ricordi bene. Ovviamente lui contesta tutto, ci sono state... Sì, lui contesta nel merito perché dice che nonostante la sentenza definitiva... Dici, io però non ho rubato perché non ero pagato in quel momento, ero senza assegno, questa è la però sì, lui era in aspettativa. Le motivazioni del tribunale bisognerebbe andare a vedere. No, cioè. Ma io oggi ho letto tutto, è evidente che i giudici ci sono andati giù pesante. Secondo lui si tratta di una, siccome lui in quel periodo attaccava moltissimo i giudici in televisione, sì. Secondo lui si sono vendicati approfittando del fatto che lui era effettivamente in aspettativa, e poi per il fatto che hanno in realtà assolto il medico e condannato lui. Comunque sì, tecnicamente c'è pure nel libro di Gomez e Travaglio, quello come si chiama, La Repubblica delle Banane, credo, tecnicamente uno lo può giudicare un pregiudicato, no? Per truffa aggravata, eccetera, eccetera, ma chi se ne frega, cioè, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Ripartono produzione industriale e spesa delle famiglie. L'OCSE conferma, la crescita accelera. Standard & Poor's però avverte, attenti al debito. Scontro in commissione al Senato. I popolari sostituiscono Mauro, che parla di epurazione. La Boschi, vicini a un accordo. Napolitano, le riforme servono. Dopo i ballottaggi il PD si prepara all'assemblea di sabato. La minoranza chiede una riflessione. Renzi dalla Cina, dice, l'Italia deve avere la forza di cambiare. I 5 Stelle arrivano al Parlamento europeo, dopodomani il referendum per decidere a quale gruppo aderire, trattative in salita per gli euroscettici. Maroni preoccupato per lo stallo dei lavori Expo, rischiamo di non finire le opere. Inchiesta Mose, i politici citati dagli arrestati minacciano querele. Hanno 15 o 16 anni, arrivano da soli, senza le famiglie, sulla costa siciliana centinaia di migranti minorenne e a Milano profughi accatastati alla stazione. C'è una speranza per padre Dall'Oglio, rapito in Siria nel luglio dello scorso anno. Contatti in corso per liberarlo. Una delegazione lo avrebbe incontrato un mese fa. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Jean-Marie Le Pen viene praticamente... è quasi cacciato, non dico cacciato, cazziato da Marine Le Pen, e addirittura il sito web del partito del Front National non ospiterà più il blog, i commenti del padre, del fondatore Jean-Marie Le Pen, che effettivamente ci è andato giù pesante, una specie di altro che Yogi Lavarini, criticando un tizio, un attore ebreo, insomma ha risposto per le rime, ci faremo un'infornata di questo tizio, signor Jean-Marie Le Pen. Resta solo Borghezio ad ammirare il vecchio Jean-Marie, che una volta, caro Parenzo, ho incontrato in un albergo di Strasburgo, circondato, anzi, con il suo autista tuttofare, che è leggermente omosessuale. Ma non lo sappiamo. Sì, è molto omosessuale. Non lo sappiamo. Jean-Marie Le Pen ha un autista, accompagnatore. Ma come quello... fai a dirlo? Ma sì, ma è chiaro, è omosessuale. Ma cioè. È calunnia. Ma è super, però ma che calunnia? Perché mica è un'accusa. No, ma se dai a uno... Vi posso assicurare, voi che ammirate Jean-Marie Le Pen... Se una qualità che non ha... Ma che c'entra? Mica ho detto che è un criminale. No, ho detto semplicemente che appare molto, molto effeminato, dunque omosessuale, l'autista accompagnatore di Jean-Marie Le Pen. Vi sembrerà strano, ma è così. Borghezio su Jean-Marie Le Pen. quando lei parla di Le Pen mi si apre il cuore. Ah sì? Mi si... una bella famiglia. Una, ma bella, insomma, famiglia. Una bella famiglia. Ma insomma, il vecchio Le Pen è stato un paralge nella guerra d'Algeria. Ha torturato. È lì che ha dato il meglio. Ma come? È lì che ha dato il meglio. Ha torturato della gente. Ma no, ma per carità. Come? Ma un paraera. Qualche schiaffettino. Ma quando mai? Così. Ha detto che le camere a gas erano un dettaglio della storia. Il vecchio Le Pen, vi posso assicurare, ha il culto degli archi, degli arabi che hanno combattuto con i francesi. Ha il culto degli archi. Cascan su la strada tra gli ombrelli aperti. Bene, Flavio Verona. Flavio. Gianni, buonasera. Dimmi, dimmi. Stavo ascoltandoti e devo dirti che per l'ennesima volta l'esempio di Sgarbi, l'esempio di Borghezio, praticamente, io vorrei solamente dirti, senza che tu ti incassi praticamente, no, che di Giovanardi, di Taormina, di Sgarbi, della Santanchè, di Fede, ne abbiamo i coglioni veramente, veramente molto pieni. Non è che puoi cambiare ospiti qualche volta così, cioè, così, solo così, un po' contenti. Non ho capito, scusa, non ho capito. Non hai capito, sì. Ripeto. Chi era il primo ospite di questa sera? Ma non lo so, perché non era, purtroppo io ho il problema. E allora, ma se non sai, se uno non sa, non parla, capito? Sì. Se uno non sa, chiama senza sapere, non parla. Il problema è che sai. No, io non so niente, ma io non so niente, io non so niente, non sai, non sai, non sai. Ascoltami un attimo, lasciami parlare. Sì, a me piace molto guardare, devo dirti la verità, piace moltissimo guardare. Mi piace molto guardare. A te non piace guardare? A te non piace guardare? Certo che mi piace guardare, dove è il problema? Ah, no, il problema no. È un altro, che tu non ascolti quello che ti dicono gli altri, quelli che ti telefonano, nel caso mio ad esempio, molto semplice la cosa praticamente. Ti sto dicendo, devi finire di tracciare le palle praticamente con tutte queste tue invenzioni del cazzo. Una te ne fai da te se dormono in due o tre a Strasburgo, che cazzo fanno a Strasburgo se parlano la diaria? Ma parla di cose un pochino più serie con tutti i cazzi che sono in giro per l'Italia. Dimmi qualcosa tu, professore, maestro, quali sono, i famosi... Quali sono i famosi cazzi in giro per l'Italia, insomma, che ci stai descrivendo, di cui ci stai parlando? Non ci sono. No, dimmene uno. Senti, Flavio, il lavoro, parliamo del lavoro. Ma parli tu di lavoro, vai a sentire Radio Popolare o qualcos'altro, magari parlano di lavoro. Ma non è questione di Radio Popolare, lì che non capisci praticamente. Io parlo di quello che voglio, capito? Io parlo di quello che voglio. Se non ti sta bene, cambia e non ci rompere le balle. Ma non ti rompo le palle, non preoccuparti, non te ne rompo le palle. Bravo. Ma il problema è che non accetti nessun tipo di critica, ti devi guardare allo specchio ogni tanto, Cruciani. Guarda, ogni giorno, assurdo allora, quello che sto combinando. Che stiamo combinando? Ma su che cosa? Ma di che stai parlando? Mettere in bocca le parole alle persone quando cazzo vuoi tu, hai capito? Cosa stavi parlando prima con quello di 5 Stelle? È un po' più sveglio di te. Subito in riga immediatamente, l'ha messo in riga, capito? Perché non è entrato nei suoi giochetti del cazzo che sono dove ti cadono tutti quanti, praticamente. Questo è il discorso, praticamente. Ti ripeto. Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? Sì, mi sono sfogato perché. Oh, bravo. Che era successo oggi? No, che era successo oggi? Qualcosa di storto con la fidanzata? Qualcosa di storto? 59 anni che c'è, non si litiga con la fidanzata, non ho capito. 59 anni che cosa sei? Hai finito? No, hai chiuso? Anni, sei morto? Sono che c'hai? Sono nonno felice praticamente, sì. Sono nonno felice di un bellissimo bambino di Bene, sono contento, giorni, ti abbraccio, ciao, ciao, okay, ciao, anch'io, ciao, ciao, ciao. E ancora a casa, Simo. Allora, caro David, come sai ci criticano, mi criticano in particolare per una... non intervista, perché in realtà l'abbiamo già intervistato più volte, per avere ritrasmesso un'intervista delle Iene, una parte dell'intervista delle Iene a un signore che si chiama Roberto Ionghi Lavarini, esponente della destra radicale milanese. Da precisare che questo signore non è in galera, eh? Cioè questo signore non è stato arrestato, non è sottoposto a fermo di polizia, non è un pericoloso criminale, è semplicemente un fascista, un neofascista. Io non lo so se non sei tu a giudicare se commette un reato, eventualmente è un tribunale. Dunque, cominciamo a dire questo, che sei tu attento a queste cose. Non è non commette alcun reato. Secondo i più, secondo te, ma che cosa? Secondo te fa apologia di fascismo? È un fascista sicuramente, dichiara di essere fascista, dichiara di essere fascista. È già questo, eh. Vabbè, ma questo qua sì, ma legge Mancino, secondo te, ma perché anticipi i giudizi dei tribunali? Perché anticipi, dato che sei così attento alla legge, non anticipare i giudizi dei tribunali? Allora, secondo un portale ebraico, Deliri Antisemiti in diretta alla Zanzara, Cruciani ha dato ampio spazio a... Sì, infatti, Cruciani ha dato uno spazio indegno a persone violentemente antisemite inneggianti l'eliminazione degli ebrei. Non l'hai contrastato, questo è sì, sicuro. Cruciani ha dato uno spazio indegno a persone violentemente antisemite inneggianti l'eliminazione degli ebrei, riportando parte della trasmissione dell'Iene. Tutto ciò non può essere ignorato. Beh, scusi, scusate, cosa vorreste fare? Non ho capito. Fanno una bella denuncia. Sì, ma sì. Ah, giustamente mi dovrebbero denunciare. Secondo te mi dovrebbero denunciare. Ma tu devi andare semplicemente a fare in culo. Questo è chiaro. Aspetta, andare a quel paese. Sì, ma non è vero, non è vero, non è vero. Io sono totalmente in disaccordo con quello che dice. Totalmente in disaccordo con quello. Detto, però. Ma come non gliel'ho detto? Io l'ho detto benissimo più volte, non c'era bisogno, glielo dicevo per la centesima volta. Capito? E a un certo punto non c'è da stupirsi che. Vabbè, ma comunque non ti preoccupare. Se sei contento del fatto che mi denunciano per questa puttanata, non ti preoccupare. Ma io ho sempre detto. Sì, che sì, bravo. Ho detto me, non io lui. Ma che denunciassero anche Mario D'Amantova. Sì, vabbè. Perché tu hai mandato più volte, io ti ho un altro signore, che si chiama. Senti, vuoi stare zitto un attimo, Alfuro, che mi dai fastidio. Un avvocato che si chiama Davide Zanon, un avvocato di Padova, scrive: dunque, non credo di essere un esterofilo, non c'è nessun paese in cui un personaggio come Cruciani verrebbe immediatamente sollevato dall'incarico. Cordiali saluti, Davide Zanon, che scrive una mail al. Non so chi, ed è lo stesso che ha scritto poi a Repubblica, al signor Augias, lo stesso che poi titola, capito cos'è che titolano, eccolo qua, se in radio va in onda il razzismo, è andato in onda semplicemente questo, ascoltatelo. In Grecia si è consolidata. I bravissimi camerati di Alba Dorata hanno ottenuto un buon risultato nonostante siano perseguitati ingiustamente dal sistema. Beh, in realtà sono accusati di terrorismo. Ma sì, sono accusati dai servi del Fondo Monetario Internazionale, della plutocrazia mondialista europea. Yonghi Lavarini, scoperto dalle Iene, in realtà è stato scoperto qui alla Zanzara e prima ancora dal signor Parenzo anni e anni fa a Tele Lombardia. Adesso tutti, come dire, dirottano le loro attenzioni su Yonghi Lavarini, che peraltro ha querelato le Iene per aver assemblato un servizio a suo dire lesivo, perché hanno montato a Yonghi Lavarini. E su, se ti fai intervista dalle Iene, che pensi, che riportano 50 minuti di intervista, tagliano dove cazzo vuoi. No, no. Quale sarebbe il pensiero alterato? Ma che ne so, ma chi se ne frega? Commenti questa frase che non è mia. La violenza non è immorale, la violenza è qualche volta morale. Quando Benito Mussolini, assolutamente condivido. Se la forza serve per difendere il mio popolo, io sono pronto ad usarla. Tranne qualche sana manganellata e qualche bicchierino d'olio di ricino, non è mai successo nulla. Ma il fascismo ha perseguitato e ammazzato un sacco di gente. Pochi numeri e all'interno di una rivoluzione, di una guerra civile. 10.000 oppositori condannati al confino, Gramsci e Turati. Andavano in delle bellissime isole a respirare aria buona. Anzi, se vogliamo dirla tutta, per me l'unico errore vero di Mussolini è che è stato troppo buono con i suoi oppositori politici. Però scusami, abbi pazienza, non mi sembra molto manipolato quello che abbiamo sentito. Yonghi Lavarini, signor, allora, guarda, Yonghi, guarda, dico, Lavarini. Mi hanno dato appena adesso una notizia sul cellulare, me l'ha dato un mio amico, per la verità, che è Adam Smulevic. Tu dici chi è? Ma chi Adam cazzo Smulevic? Milanovic. Stai zitto, l'ha detto stampa dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sì, mio amico Adam Smulevic, che mi dice che Yonghi, te lo sto dicendo, gli abbiamo dato un messaggio, Yonghi Lavarini è stato denunciato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane assieme alle Iene, mi ha appena detto. Sì, assieme alle Iene, che c'entrano, scusa, allora perché non hanno denunciato noi quando abbiamo intervistato 40 volte Yonghi Lavarini? Io dico semplicemente, io ti ripeto, l'ha detto stampa dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dopodiché ti dico questo, che chi lo ha visto in faccia questo qui, perché anch'io non me lo ricordavo anni fa, come già aveva quella faccia lì, ma vedendolo in faccia, lì ti viene una sonora risata, cioè è un uomo che fa paura a se stesso, solo. Senti questa cosa qua sull'olio di ricino, senti, che aiuta secondo Yonghi. È stato proprio buono come lo era l'olio di ricino. Ma un goccino d'olio digestivo aiuta anche a dimagrimento e tutta salute. E fa ragionare. E fa ragionare? Il fascismo era come un buon papà. Al bambino che sbaglia gli dai una sberlina sulla mano. Al comunista che sbaglia gli dai una leggera bastonatina che così riflette e ragiona sui suoi errori. L'olio di ricino, Roberto Yonghi Lavarini. Signor Yonghi Lavarini. Ora che per quel che ha detto, insomma, qualcuno ha preso, ma io sono fascicolo. Per la libertà di io, no, nessun fascicolo. Yonghi Lavarini è fascista dichiarato, non gli rompete i coglioni, è un fascista dichiarato, non gli rompete i coglioni, capito? Basta. No, un momento, c'è una legge però. Ma quale legge? Bisogna abolirla. Ammazza la zanzara, schiaffeggiati le chiappe, la chiappa nera ti fa. Balla la zanzara, vedrai che non ti punge per tutta la sera. Ma non ti fermare, non ti arrendere, che se ti fermi lei ti viene. Allora, siccome il signor Augias vuole un chiarimento, due parole di chiarimento sarebbero. Ma certamente è chiarissimo. Io ridevo della comicità. Ridevo, che... stai zitto un attimo. No, un cazzo! Perché io sostenevo. Togliete l'audio un attimo, togliete l'audio. Allora, io semplicemente ho detto in maniera chiara, ridevo della ridicolaggine del signor Yonghi Lavarini, della comicità volontaria o involontaria, fate voi. Dunque le parole di chiarimento sono inutili, cioè per quello che mi riguarda sono cose da non portare in tribunale. Se uno vuole portare in tribunale, andasse in tribunale. Avrò il diritto di dire che secondo me una cosa del genere è talmente ridicola, il personaggio è talmente assurdo che non merita di andare in tribunale? Posso avere il diritto di dirlo senza essere tacciato di razzismo e di fascismo? Benissimo, ovviamente non sono d'accordo con mezza parola di quello che dice il signor Yonghi Lavarini. Parenzo, di la tua, avanti. No, non dico più un cazzo, arrivederci. No, di la tua. No, mi interessa, andiamo avanti. Dimmi la tua. No, basta, non si chiude l'audio quando uno parla, andiamo avanti. No, ma devo finire. Non mi interessa, passiamo a un altro argomento. Quello che c'era da dire l'ho detto in quella registrazione e si è sentito. Fine. Sì, appunto. Cosa c'è da aggiungere? Non ho capito. Basta. Hai tolto l'audio. Ma certo che ho tolto l'audio, stavo parlando io. Andiamo avanti. Ma che vuol dire andiamo avanti? Non ho capito. Ti sto chiedendo cosa c'è da aggiungere. No, non ho più niente da dire, andiamo avanti. Vabbè. Chi ha ascoltato lo sa. Via. Vabbè, sì, Lorenzo da Milano, avanti. Dai. Lorenzo da Milano. Avanti. Meglio che Parenzo non parli di tutta la sì, ma tolga il viva voce, amico mio. Aspetta un attimo. Ma aspetta un attimo cosa? Cioè uno può perdere allora, ci sono. Allora, Parenzo è inutile che dica sempre cazzate, che spari minchiate, perché certe volte tu vai dalla parte della ragione quando gli dai del pistola. Allora, l'ultima notizia, non so se l'hai sentita, il problema è che non la diffondi e lì è una tua pecca, perché vuol dire che non sei sensibile, non capisci una minchia. Allora, il capo di stato maggiore dell'esercito ha detto che 8 militari, chiaramente marinai, sono stati contagiati dalla TBC. Sì. 8. Per colpa TBC, di chi? TBC, sai che è infezione. Del salvataggio che fanno giornalmente. 8 sono stati infettati da TBC. Tu sai che la TBC è. Vabbè, uno potrebbe dire, Lorenzo, sono cose che succedono quando uno. Che cazzo, sono cose che succedono. Anche quando uno va in guerra, uno va in guerra si becca successo, le malattie. Non no? è mai successo. TBC non è mai successo. A Brescia c'è la scabbia. Allora mi dici dove cazzo stiamo andando? Lorenzo, rispondi. Abbi pazienza, parla anche di queste cose terra. Invece parla di allora io mi sono semplicemente incavolato quando qualche esponente della Lega o di altri partiti similari utilizzava gli immigrati per portare in giro il tema delle malattie. Allora quando questo viene usato come strumento politico per dire che gli immigrati portano malattie e uccidono, rispetto a questo dicevo, attenzione, perché un conto è quello che fa la Croce Rossa quando li accoglie e li sistema, li lava. Sei già troppo lungo però. Cavolate. No? Le portano o non le portano? Due sono cose. Le portano o non le portano? Uno può considerare la cosa come naturale. Cioè è normale che se arrivano possono... Ma dipende come viene detto. Siccome viene detto in termini assolutamente razzisti, per cui sembra come dire... Dunque, quando Salvini dice Ebola arriva, è razzista? Beh, cioè, assolutamente sì. Cioè, non è che dice... 30 secondi, torniamo subito. Dobbiamo attrezzarci... Per curare questi qua dall'ebola, per curare questi qua dalla tubercolosi. Dice, oddio, oddio, non li vogliamo perché portano l'ebola. E secondo te questa qua è una cosa razzista? Buonasera Anita. Anita. Ernesto da Roma. Buonasera Cruciani, come va? Dimmi Ernesto, dimmi. Niente, una notizia terribile per lei e Parenzo, che siete notissimi frequentatori di prostitute transessuali. No, veramente non è così. No. Ma nemmeno io. Non vogliamo negare, neghiamo, perché siamo in diretta, ma siccome ci sente poca gente, si può anche dire. Voi si sa che andate a puttane e a transessuali. Ma non è vero, ma non è vero, si sa che cosa. Ma si sa cosa, non si sa nulla. Qualche minorenne in ascolto, quindi diciamo che non è vero. Ma no, ma non è vero, ma ci va lei? Lei ci va? No, io non ci posso andare, sa perché? Ci ho provato pure, da quando, sin da ragazzo, non ci riesco, ho problemi di erezione. L'idea di dover pagare mi blocca l'erezione, non faccio niente. Tanto è vero che da ragazzo ero convinto, guarda, sto diventando frocio. Ma lei, adesso non è che l'alternativa all'erezione sia essere froci, perché... No, si fa pensare, quando io ho un'età, quando ero ragazzo io, uno che non aveva erezioni, insomma... Invece poi andavo con le ragazze. Ma che c'entra? Non è che un omosessuale non fa attività, Sì, no, ma con le prostitute, con le donne, non, il fatto di dover pagare mi bloccava, mentre con le mie compagne di scuola era una cosa tranquilla, normale. Comunque, volevo dire questo, sì. La notizia brutta, caro Cruciani, caro Lorenzo, è che oltre a l'emigrazione dei cervelli c'è anche l'emigrazione della passera e dei passerotti, cioè delle prostitute e dei transessuali, perché vanno verso l'Austria, la Francia, la Germania, dove la prostituzione è legalizzata e quindi possono fare una normale vita senza avere questa clandestinità fiscale. Vabbè, ma questo qua è una cosa che già si sa, Ernesto, non c'è bisogno che ce la spiega lei. Che vadano all'estero, se ne vanno, perché così possono pensare al futuro dei figli, ai genitori anziani tranquillamente, senza finire nel le mani degli sfruttatori. Ecco perché si dovrebbe anche in Italia. Gli sfruttatori esistono anche in altri paesi dove è legalizzata. Dove è legalizzata hanno una vita grama gli sfruttatori, glielo dico io che ho abitato in Germania. Però scusi, quindi, Ernesto, ripeto, lei sta parlando di una cosa già ampiamente nota, cioè il fatto che le escort italiane, non solo le escort, barcano il confine dove possono più liberamente esercitare il loro mestiere. Ma per lei questo è grave, lei che va a puttane tutti i giorni. Ma io non vado a puttane tutto il giorno, tutti i giorni, caro Ernesto. Comunque, no, volevo dire seriamente, questo fiume di denaro che tutti i giorni scorre. Ma quello sono d'accordo con lei. Dove stiamo parlando noi adesso, c'è gente che sta pagando 100, 200, 500, 1000 euro senza in Austria, in Svizzera, in Slovenia, in Germania. In Italia non si pagano le tasse, non c'è dubbio. Lo Stato ci rimette un sacco di soldi su questa attività. Se legalizzasse la prostituzione, altro che 80 euro al mese, e un altro fiume di denaro con i costi sanitari. Pensa quanti costi sanitari delle malattie infettive, AIDS. Vabbè, non è che si eliminano le malattie HIV. Non è che si eliminano. Anche questo è un fiume di denaro, ma non è che si eliminano in questo modo, certamente. Sì, diminuiscono molto. Vabbè, ma Ernesto, con noi sfonda una porta aperta, eh. Grazie. Andrea, provincia di Varese. Buonasera Cruciani e Parenzo. Senta, vai. Io volevo dire a proposito della questione della Spinelli all'Europarlamento. Sì. Adesso ci si mette pure Scanzi basta a dire basta questa storia che... però basta. Ma senta, a me fa incazzare perché questi politici non fanno quello che dicono. Ma lei avesse detto vado all'Europarlamento, siamo tutti felici. Lo faceva già la destra, adesso pure a sinistra. Guardi, però sono giorni e giorni che parliamo di questa contraddizione, non c'è nulla di nuovo. La difesa anche Mentana dicendo alla fine che male c'è a cambiare idea. Perché sei d'accordo con Mentana adesso, Parenzo? Ma io ho già detto, dunque commentare, ma l'ho già detto all'inizio della polemica, 4-5 giorni fa, che la Spinelli ha sbagliato a dire mi candido ma non vado e a prendere le preferenze, come ha sbagliato lei e come hanno sbagliato tanti altri che sono candidati e poi dimessi. Oggi ha fatto bene, però, solo questo io ho sempre detto, che oggi... Ha fatto bene o ha fatto male? Non si... Qualche volta veramente non ti si capisce. No, ha fatto benissimo ad andare in Europa. Male e poi ha fatto bene, ha fatto malissimo e poi ha fatto bene. Il voto... Certo che veramente se uno deve trovare con te una così un minimo, un minimo proprio zero, è una persona di sinistra, di destra, di centro, della Lega o di del partito del Bubù. Se con le preferenze chiedi i voti per andare in Europa... Sì, ma non ha chiesto i voti per andare in Europa, ha chiesto i voti per la lista dicendo che si sarebbe... È assurdo, perché voti la persona con la preferenza. Insisti, allora, hanno raccolto le firme, hanno raccolto le firme e pagato la campagna elettorale della signora Spinelli, gli altri, in parte anche SEL, sulla base di una cosa molto semplice, che la signora Spinelli, che si è fatta pagare la campagna elettorale da SEL, sulla base del fatto che dopo si sarebbe dimessa. Se n'è sbattuta altamente, se n'è sbattuta altamente, e siccome gli amici gli dicono di restare, siccome lei, no, c'è questa missione, in realtà anche la Cadrega gli interessa la Cadrega. La Cadrega fa l'editorialista per un grande quotidiano, che gli frega del Parlamento europeo. Guarda, l'amico Fabrizio Rondolino scrive che alla Spinelli interessano i soldi moltissimo, il che ovviamente è corretto, è giusto, non c'è niente di male. Delfo, provincia di Bologna. Buonasera, grazie di avermi chiamato. Signor Delfo, ha chiamato lei, grazie, dica. Grazie per il signore. Vorrei, se mi permette, vorrei fare una considerazione breve e farmi una domanda. La considerazione è questa. Sento il suo socio a spalla, il signor Parenzo, che sempre sostiene la comunità ebraica, Ma che sostiene? Ma nessuno sostiene nessuno qua. Palle. Io sono del 40, ho fatto in tempo a prendermi qualche mitragliato. Vabbè, allora? Gli alleati. E nel dopoguerra mi sono assorbito giustamente l'orrore di... Delfo, che... non possiamo farla troppo lunga, qual è il problema? Ok, a questo punto ci hanno già trattato le palle abbastanza, adesso ci dobbiamo occupare della Shoah dei palestinesi. Arrivederci, la Shoah dei nazisti chi sarebbero, gli ebrei? Certo. Gli ebrei sono nazisti nei confronti dei palestinesi. Lei è un cretino. Lei è un cretino, caro Delfo. Lei è un cretino. Marco dalla provincia di Alessio. Sì. Ma secondo me, io le dico che secondo me lei è un cretino. Marco dalla provincia di Alessandria. Adesso gli ebrei sono diventati nazisti. In realtà l'ha detto una volta, tempo qualche mese fa, qui, come si chiama? Il professor quello. Come si chiama quello che era al Parlamento Europeo prima? No, quello che era prima al Parlamento Europeo. Vattimo. Marco, provincia di Alessandria. Eccolo qua. Vai. No, dato che sei il numero uno, volevo che tu mi spiegassi una cosa, no? Cioè, mi riferisco all'intervento di Corrao prima, no? Cioè, io non ho capito, ma devono prendere 2.000 euro al mese e non 20.000 euro, cioè... No, allora hanno detto che prendono l'indennità piena al Parlamento Europeo, la prendono piena. È qualunquismo, è proprio la quintessenza di come questi incapaci non sono in grado di fare un tubo, perché cioè, quando uno è bravo deve essere pagato, questo bisogna fare chi... Ma guardi che più o meno ha detto la stessa cosa lui, perché ha detto l'indennità la prenderanno piena, poi risparmieranno su qualche altra cosa, ma ha detto che... L'autostop della Sicilia, ma tu... Vabbè, ma quello era un modo per farsi vedere, per pubblicare le foto su Facebook, non è che andrai in autostop sempre al Parlamento Europeo, dai, su Marco, hai capito o no? Di dire che quelli bravi devono essere pagati, punto, finisce lì. Che sono incapaci, tra l'altro, vedi anche dal fatto che nella questione dell'India, che ha detto lui, no? Che non sa neanche di cosa sta dicendo, cioè tu capisci. Per lei e Parenzo, che siete notissimi frequentatori di prostitute transessuali. Tu sei come una piccola zanzara. Ormai è tutto degradato. Che poi stavo pensando una cosa, David, no? Sulla questione radio razzismo, no? Su quella questione lì. Stavo pensando una cosa. In realtà l'ipocrisia è spaventosa. perché non sto parlando di te, ovviamente, tu hai le tue idee, giustamente. No, questi personaggi, aspetta, questi personaggi ti fanno schifo e va benissimo, anche a me fanno schifo in realtà. Magari io ci metto, come dire, non ho la stessa attitudine che hai tu, non ho la stessa reazione che hai tu. Nel passato anche tu ridevi, ma lasciamo perdere, non è questo il punto. Il punto fondamentale è che un personaggio come Farage, per esempio, viene considerato più o meno come Yonghi Lavarini, cioè viene considerato una sorta di xenofobo, razzista, eccetera eccetera. Eppure tutti i giornalisti italiani, europei, eccetera, sono stati alla ricerca di un'intervista col signor Farage, pur considerato un xenofobo, razzista, eccetera eccetera, per una settimana praticamente, quando Grillo ha annunciato questa pseudo alleanza. Non si capisce perché le Iene non possano, o la Zanzara, non possano intervistare il fascista dichiarato xenofobo, eccetera eccetera, Yonghi Lavarini. Non sto facendo un paragone tra i due personaggi, sto dicendo semplicemente che è la stessa cosa. O si rinuncia a intervistare personaggi di questo tipo, o si rinuncia così, oppure non è che Farage è meglio di Yonghi Lavarini. Più o meno viene accusato delle stesse cose, più o meno, Vabbè, ma lasciamo perdere questi argomenti, caro Parenzo, perché abbiamo qui, beh, possiamo dirlo, uno degli sconfitti. Eh beh sì, uno degli sconfitti di questa tornata elettorale, lo ammetterà lui stesso, perché non è stato più reeletto sindaco di Pavia, ex formattatore del PDL, quando esisteva il PDL. Alessandro Cattaneo, buonasera. Eccoci, buonasera. Come stai, Alessandro? Vabbè, insomma, così, la sconfitta c'è stata e si prende tutta, uno deve essere sempre una persona seria, quindi ecco. Ma diciamo la verità, quando è adesso, siccome eri considerato blindato, diciamo la verità, nessuno poteva pensare, tra le persone che io dall'esterno, sì certo, dall'esterno nessuno poteva immaginare il sindaco di Pavia fino a qualche mese fa, anzi probabilmente anche adesso se uno fa un sondaggio magari, il sindaco più amato in Italia con oltre il 60% di consensi secondo una classifica del Sole 24 Ore, considerato l'astro nascente di Forza Italia, figuriamoci se non viene riconfermato a Pavia. Beh, e invece è successo una cosa pazzesca. Tu hai detto già, una cosa è chiedere a una persona con un sondaggio, no? Chiedere a una persona. Sì, certo, chiedere come se uno gli piace il suo sindaco e lo rivoterebbe al telefono, dice sì, poi cosa diversa è quando si va nell'agone e si va a vedersela con 9 candidati, 500 candidati al consiglio comunale e poi scattano diverse dinamiche. Purtroppo abbiamo sfiorato la vittoria al primo turno, il ballottaggio è sempre una roulette russa e il colpo è partito nella direzione sbagliata per il sottoscritto. Vabbè, adesso tu hai parlato in questi giorni, hai fatto tante interviste, dici, c'è stato un clima di odio contro chi governa, in realtà per qualche sindaco non è stato così, comunque vabbè, dico per quelli del ballottaggio, se ci fate caso, forse solo uno su tutti quelli del ballottaggio, sindaci di capoluogo, è riuscito a riconfermarsi. Però io sono partito dal dire. Poi hai parlato di calo di Forza Italia. Ok, ho capito. Appunto, qualche colpa te la prendi o no? Altro che. No, io sono partito sempre dal dire che le colpe sono sempre di chi ci mette la faccia in primis. E quindi, così come io ho avuto l'autonomia e la forza in 5 anni di dire liberamente quello che pensavo, perché avevo la forza della mia città, di diventare presidente di ANCI più giovane, di diventare sindaco più amato, oggi ci devo mettere la faccia seriamente e dire che la responsabilità è mia. Allora, ovviamente. Sei un po' da questa cosa qui, sono molto franco, come sai. Attapirato. Sì, certo. Come attapirato, non ho capito. Sarà un po' attavirato, no? Come si usa dire in questi casi. Ma sei un po' ridimensionato, cioè ti senti rispetto a quello che Cattaneo era nell'immaginario degli elettori di centrodestra, anche dall'esterno, perché un sacco di persone pensavano che c'è qualcuno come Cattaneo che può diventare magari in futuro l'erede di Berlusconi. Ti senti un po', questa cosa un po' ti ridimensiona, diciamo la verità, o no? Per un periodo devi stare un po' sotto, un po' coperto, come si dice? Allora, innanzitutto Alessandro Cattaneo è la persona che tutti hanno conosciuto per le sue battaglie, per i suoi contenuti, per la sua serietà, e questo credo che nessuno... Vabbè, non è che se uno perde cambia, questo vabbè. Infatti devo dire che insomma le tante sensazioni di stima, è ovvio che quando uno perde nella sua città, questo è un dato politico da cui non si può prescindere, e quindi è ovvio che io lo guardo in faccia il risultato. Però intanto io sono di quelli che la faccia ce la mette e si gioca col consenso in una partita difficilissima. Ribadisco, io ho perso La realtà è che ho perso il primo turno, dove purtroppo sono sfiorato il ribaltone rispetto alle elezioni europee. Pensate che a Pavia il PD ha chiuso le europee col 42%, sì, 42%. E Forza Italia il 17%, io ho portato la mia coalizione al 47%. Un però ti senti un po', sei un po' partito. Senti un po' attapirato, hai utilizzato un'espressione, cioè sei un po' attapirato, cioè sei un po' un cane, sì, però, bastonato, come dire. Però sta passando abbastanza alla svelta, dai, diciamo che quando uno ha l'onestà intellettuale di averci messo l'anima e soprattutto anche poi la sostanza per guardare... Ma è vero che qualcuno del partito ti ha fatto un po' la guerra dicendo di non andare a votare a Pavia? Ma no, io non credo, insomma, non è poi così facile fare queste strategie, le letture sono... Qualcuno mi ha detto, un uccellino mi ha detto che una tua vittoria a qualcuno non piaceva, è possibile o no? Dai, dimmi la verità. Ma non lo so, in politica tutto è possibile, è anche vero che magari anche una mia sconfitta a qualcuno non piaceva e quindi... No, ma appunto una sconfitta, appunto una sconfitta... È più facile indurre una sconfitta, tu dici, in politica, piuttosto che favorire una... Basta vittoria. Dire di non andare a votare, sai, in questo caso al secondo turno è facile. Sì, però sai, tieni conto anche che Pavia è una città tradizionalmente fortemente di sinistra, la mia la prima amministrazione di centrodestra. Allora, tu mi devi dire una cosa. Berlusconi ti ha telefonato o no? Sì, c'è stata una telefonata, credo. Sì, un breve contatto. Anche la Pascale? No, no, la Pascale no. No, che c'entra? Totti, sì, lo sento ogni giorno. Totti oggi c'è stato ufficio presidenza, quindi ho visto un po' tutti. Sì, dove non è andato Berlusconi. Senti, ti chiedo un'altra cosa. Mi hanno detto anche qui un uccellino, poi gli uccellini sono sempre portatori di qualche verità, che Berlusconi era pronto a... però veramente devi essere sincero su questo, perché non si tratta di crimini di guerra. Berlusconi era pronto a nominarti vice di Totti, vice consigliere politico di Totti. È vero o non è vero? No, io questa cosa non l'ho mai discussa con il Presidente, a dire il vero l'ho sentita per la prima volta oggi sui giornali, ma direttamente non l'ho mai sentita. Non però niente. Niente che, Parenzo, non ho capito. No, niente, chiuso, finito, adesso per un po'. È finito, ha detto che ha tapirato, mica è no, morto. No, ma infatti a me dispiace perché ti voglio bene, non ha neanche un'inchiesta, niente. Ma guardate che io sono abituato a lavorare tanto. Ma e Fitto ha stappato lo champagne? Alessandro, credo. Fitto ha stappato lo champagne, diciamo la verità. Credo, questa diciamola tutta. Signor Fitto, che tu hai criticato, che fa un uso personale dei voti che ha preso, la battaglia personale nel partito, le critiche ci stanno. Ma ha stappato una. Secondo me appena. Al massimo apriva un primitivo di Manduria, però non credo che. Non credo ha aperto un primitivo di Manduria, dai, su. no, dai. Ma no, alla fine. Credo sia interesse di tutti rimettere in piedi un'area di centrodestra, una Forza Italia che possa essere radicata e possa prendere dei buoni consensi. Ve state a scannare, ma col 17% vi scannate, ma com'è possibile sta storia? No, ma infatti non bisogna scannarsi, al massimo bisogna confrontarsi anche in maniera alta e vera sui contenuti, su che cosa vogliamo dire ai nostri lettori. Ma su ti sei pentito di avere votare Forza Italia lo so, ti sei pentito di aver detto quelle frasi su Fitto, cioè che fa un uso personale dei suoi voti per una battaglia, eccetera? No, a parte che era il titolo come sempre un po' marcato, no? Vabbè. Ho detto un'altra cosa, ho detto che in generale non vanno bene delle battaglie personali ma delle battaglie di contenuto, ma insomma forse poi se vabbè, era riferito a Fitto tutti, però era riferito parlassimo... Ma no, se tutti parlassimo un po' sui giornali e facessimo un po' più il partito vero, ma io per primo insomma questo potrebbe... Cioè dovete parlare di meno sui giornali? Beh sì, perché poi alla fine viene fuori sempre una visione un po' più marcata. Senti, ma è possibile che tu hai dato l'idea di essere troppo vicino al Re Sole? Cioè prima eri un formattatore, poi successivamente ti sei avvicinato adesso negli ultimi mesi al gruppo, diciamo, che fa capo a Toti, a quello che è considerato il cerchio magico intorno a Berlusconi, piuttosto che a Fitto. Dunque sei, magari c'è stata l'impressione dall'esterno che tu fossi vicino, troppo vicino a Berlusconi o no? Ma che ci qualcuno dice essere... che voleva venire a Pavia e tu non eri molto d'accordo, no? Ma che ci possa essere l'impressione dall'esterno, vabbè, sta nelle cose, però tutti vedono che il percorso che io ho sempre fatto è sempre stato alimentato da una forza solida di una base mia, di una farina del mio sacco, che finora mi ha sempre appunto dato lo sprint per salire. Oggi ovviamente con la stessa franchezza mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma da qua riparto, quindi come dire, sì, qualcuno può dire che questa cosa c'è stata, ma è anche qua un pochino tutto strumentale, in realtà io rimango io. Cioè sei stato più ad Arcore che a Pavia? No, quello no, senz'altro, perché ad Arcore non è che sono stato nella mia vita. Arcore a Roma, che ne so. A Roma ci sono stato per fare il vicepresidente di ANCI, ma ne ha tratto beneficio anche la città, ma non credo nemmeno questo sia stato la domenica anno. La domenica con le scuole già chiuse, che ne so, di chi era come? Oppure il 100%, diciamo 100% responsabilità mia, 100% Cattani, no, 50 Forza Italia e 50 e no 100% responsabilità Alessandro Cattaneo, e poi si analizzano bene i voti e ribadisco, si riparte. Io ho la fortuna comunque di avere una professione, una famiglia, una vita privata. Ma che fai di professione? Che fai, avvocato? Che fai? Io sono ingegnere. Ah, ingegnere. Ma io non fa l'ingegnere da una vita ormai. No, beh, non è se vero. Uno non fa più l'ingegnere, ormai non lo può più fare l'ingegnere. Ma guarda che l'ingegnere se la possono fare tutto, caro Cruciani. Che anche fa l'ingegnere? Anche conduttori radio. Sì, quello è vero. Gli ingegneri possono fare tutto. Sì, è vero. Ma tu che vorresti fare se non facessi? Dove vorresti continuare a fare l'ingegnere o qualcos'altro? C'è una cosa che vuoi fare? Metti fra poco, sei giovane, dici basta, la politica mi ha scocciato. Che no, fai? Ma infatti io ho 34 anni e come si dice, ho tutta la vita davanti. Sembri vecchio, in realtà, alcune volte. Io una volta ho detto alla radio che dovresti slacciarti la cravatta, andare in poi. Sì, me l'hanno di riferito, però guarda che chi mi conosce a Pavia non mi ha mai visto con la cravatta, quindi forse vado in televisione. In televisione? Con la esatto, troppo in televisione con la cravatta. Troppo in televisione. Ma sì, allora, hai visto Renzi, no? Hai visto Renzi? Un look più ma così sì, smart. Un look più smart in televisione, tutto incravattato. Televisione. Dai, va bene, delle camicie volta, come quelle di Formigoni, ti ricordi quelle di Formigoni? No, per carità, come Formigoni no, dai, come Formigoni no. Però vabbè, non vi dovete più scannare, ma Salvini può fare leader del centrodestra secondo te? Ma diciamo che c'è bisogno di riunire tutto il centrodestra, quindi una sana competizione tra tutti può solo far bene. Vabbè, ma lo può fare secondo te il leader del centrodestra? Io dico che per la scelta del leader, ma solo per la scelta del leader, per esempio le primarie di coalizione possono essere un buono strumento di selezione. Ma non per Forza Italia, dici, non per scegliere il leader di Forza Italia. Ma guarda, io sono ovviamente per le primarie le ho fatte, dobbiamo solo però capire realisticamente se le primarie sono il metodo giusto per fare partecipare il nostro elettorato, che io posso raccontarvelo bene, non partecipo molto, per esempio i ballottaggi per niente. Non c'è andato quindi, proprio, cioè ti hanno abbandonato, quindi, a ballottaggio i tuoi ti hanno abbandonato. 32 gradi. Etero diretti da qualcuno che voleva far perdere Cattaneo, da una sorta di fittiano di Lombardia, eccetera, o da qualche nemico di Cattaneo, hanno detto no vabbè non andate a votare che quello tanto perde. Allora, ti sei fatto battere da il sindaco più amato d'Italia, da un consigliere comunale del Partito Democratico. Sì, ma io davvero, mi senti io mi metterei veramente sotto ma vi vergognerei come un ladro, dice. Ma infatti guarda sono qua seppellito da vergogna. Ciao Alessandro, a presto. Ciao a tutti. Lei che va a puttane tutti i giorni, per lei è gravissimo. Oh, gli amici di Radio Padania si dilettano su di noi, caro Parenzo, eh. Sentiamo il solito Sammy Varin. Ci resto a fare insieme a te. È meglio lavorare, non voglio discutere con te. C'è un doppio aspetto positivo su Padova. Parenzo, infatti, solo che mi citi Parenzo, dice. Parenzo, infatti, ha detto che lui se ne va a Casal di Principe, indignato dal risultato. Per ringraziarlo, mandiamogli una confezione di prosciutto di Sauris, lardo di Colonnata, speche del Sud Tirolo, ciccioli e altre prelibatezze padane. No, no, no. Mandatele a me queste cose, mica Parenzo. Pronto? L'incredibile Briatore, spessissimo sono d'accordo con lui. Questa volta però, no, francamente, non capisco il senso di questa frase. Questa mattina da Minoli a un certo punto ha detto: in Africa non c'è corruzione. Ti giuro, così ha detto: in Africa non c'è corruzione. Senti. Senti, ma là a parte che dittature ce ne sono sempre di meno in Africa, ma comunque, insomma, certamente ci sono regimi, insomma, che definire democratici, sarebbe molto strano. Ma senti questa cosa. è molto più semplice fare l'imprenditore. Ma c'è più corruzione in Africa o in Italia? Io onestamente in Africa credo che abbiamo aiutato della gente. Noi abbiamo avuto dei terreni da parte del governo, abbiamo costruito su questi terreni delle case per governative. Non credo che ci sia corruzione. Amico mio, non avrei pagato la mazzetta in Kenya, l'hanno inglobata nel prezzo, l'hanno inglobata nel prezzo complessivo dei lavori che hai fatto, non lo so, ma dire che in Africa non c'è corruzione adesso, caro Flavio, dai, su, su, dai, abbi pazienza. In Africa è il regno della corruzione, il regno. Oh, i famosi 5-6 mila euro al mese dai camerieri senza tasse. Dati ai camerieri. Sentite, Briatore. È una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. L'istruzione, voi qui avete una base fantastica, no? Avete una base molto importante. Però non è detto che tutti voi diventiate direttori generali, amministratori delegati. Io preferisco fare il cameriere, e che so che se sono bravo faccio 5-6 mila euro al mese. Oltretutto sono 5-6 mila euro al mese veri, non pago tasse, non è che ti fanno delle fatture i clienti, no? Tu, la mancia. La mancia, questa è la mancia. Sì. È vero che in alcuni locali danno anche 5-6 mila euro di mancia, a parte bisogna vedere per quanti mesi, ma non è che può essere un'alternativa. Siccome in alcuni locali danno 5-6 mila euro di mancia, allora è meglio fare i camerieri piuttosto che non fare nulla. Beh, anche secondo me è meglio fare i camerieri piuttosto che non fare nulla. Sicuramente i giovani italiani sono leggermente schizzinosi di fronte a certi mestieri, che sono appunto il cameriere, eccetera, eccetera. Vabbè, dove andiamo? Andiamo a Milano. Francesco, buonasera. Cruciani, la prego di essere gentile, è la prima volta che chiamo. Volevo semplicemente dire che l'ho sentita dire una cosa molto intelligente all'inizio della trasmissione, quando parlava del vostro ospite fascista e chiedeva sul finale della registrazione di abolire qualsiasi legge impedisse di dire la propria e quindi di esprimere un'opinione. Credo infatti che se il sonno della ragione genera mostri. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Grazie, grazie. Allora dai, su Francesco, chiudiamo questo argomento, dai, che volevi dire? Sì, sì, no, finisco il pensiero consigliando che l'atteggiamento sia anche di ascolto, semplicemente perché se non facessimo parlare persone come lei adesso ha citato Briatore, non potremmo commentare quel pensiero. Che c'entra? Briatore non è che dice delle cose assurde sugli ebrei e sui forni. Cose assurde sull'Africa e sugli... E sugli... Vabbè, ma non è la stessa cosa, dai, non possiamo mettere le cose sullo stesso piano. Tutti esprimono la loro opinione. Ma guardi, secondo me uno come Yonghi Lavarini può tranquillamente parlare senza finire in tribunale. È, come dire, una minoranza della minoranza della minoranza. Non bisognerebbe nemmeno... Ed è giusto avere... Ma fa malissimo la comunità ebraica, fa malissimo a citarlo in tribunale, perché gli dà importanza, fa molto male. Ma no, perché se uno si sente offeso... Ma sì, ma da Yonghi Lavarini ti senti offeso? Ma dai, no, dai, su! Che ma tu ti senti offeso da quello che dice Yonghi Lavarini? Ma io personalmente sì. Ma dai, su, ma no, volta, ma ti conosco bene. Ma allora non lo invitare quando lo invitavi a come si chiama? A Tele Lombardia. Lo invitavi a Tele Lombardia, l'hai scoperto, l'hai invitato. L'ho intervistato, durante quell'intervista l'ho anche massacrando, perché non è che gli facevo dire qualcosa. Ho capito, ma lo invitavi per fare spettacolo, tu ebreo, tu ebreo, lo invitavi per fare spettacolo. Tu ebreo, lo invitavi per fare spettacolo. Ammettilo, tu ebreo, lo invitavi per fare spettacolo. Ma nessuno spettacolo, lo chiamavo. Come no, lo invitavi per fare spettacolo. A parte che era candidato anche alle... Ma non me ne frega niente, tu ebreo lo invitavi per fare spettacolo. Ma sa stare cosa sono io, cosa no, ma così è. Tu devi cominciare a metterti in quella testa bacata che rispetto a quello che dici, se qualcuno si offende devi incassare e prendere che le persone ma chi dice niente? Chi dice niente? Devi ma chi dice cominciare niente? A capire ma che c'entra io? Io non... Ma che c'entro io con le offese di Yonghi Lavarini? La comunità e anche altre persone. Sì, ma non difendere sempre, io comunque. Io difendo chi mi pare, perché io ritengo che se uno ti dà del figlio di puttana e tu ti senti offeso, hai tutto il diritto. Dice, oh, ma che male c'è? Ho detto, vabbè, sono figlio di puttana. E dico, sì, ho capito. Vabbè, ma non è così. Non ecco, è così. Io uso la stessa dialettica che usi tu. E allora il ragionamento è assolutamente uguale. Non ti puoi stupire, fare l'indignato se qualcuno, secondo me giustamente in questo caso, dopo una, due, tre, quattro, cinque telefonate di quel Mauro da Mantova, di quell'altro. Oh, insisti con sto Mauro da Mantova, insisti. E giustamente denuncia. Va bene, d'accordo, denuncia Mauro da Mantova, avanti. Cioè, divertitevi così, dai, divertitevi così. Se ti vuoi divertire così, denuncia Mauro da Mantova. 50.000 volte. Senti, abbi pazienza, chiama e ha diritto di intervenire come tutti gli ascoltatori, va bene? Chiama lui. Non mi interessa, chiama lui, non parla solo di ebrei. Non parla solo di ebrei, basta. Per me, anche se offende un altro, uno ha diritto di denunciarlo, eh? Ma sì, ma certo, ma se uno si sente offeso, denunci. Ma denunci pure. Vabbè, vabbè, divertitevi denunciando Mauro da Mantova. Divertitevi, fanno molto bene. Divertitevi, tanto tu non potresti dire nulla di diverso, figuriamoci. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno. Stefano da Catania, buonasera. Buonasera, è la prima volta che chiamo. Ascolti, Cruciani, io l'altro giorno ho assistito per l'ennesima volta allo scempio del Gay Pride di Catania. Ancora? Sì, e cosa ho fatto? Ho fatto delle foto e le ho denunciate ai carabinieri. Ma che hanno fatto di male al Gay Pride a Catania? Io che hanno fatto dire, di male? Se io, lei, Parenzo, usciamo con il culo di fuori in strada, sì, cosa ci succede, dico? Ma perché che hanno fatto a Catania col culo di fuori, col pisello di fuori? Che c'erano? Scopavano, trombavano, pompini, cose? Che succedeva? A parte dico che è una cosa scena. Dico, se io e lei camminiamo con il culo di fuori, che cosa succede? Ci denunciano. Vabbè, ma non è la stessa cosa. Quella è una grande festa popolare. Una grande festa popolare dove ci sono omosessuali, transessuali, le diversità che sfilano per le strade della città, in particolare a Catania. Andrebbero tutti denunciati dai carabinieri, tutti. Andrebbero tutti denunciati dai carabinieri, andrebbero denunziati. Capito? Paio Parenzo, siete come questo qua voi. Tu che vuoi denunciare Mauro da Mantova, sei come questo che vuole denunciare gli omosessuali. È un po' diverso, però. È la stessa cosa. È un po' diverso perché Mauro da Mantova chiama. Si sente offeso e tu ti senti offeso, è uguale, sei come questo tizio qua di Catania che vuole denunziare. Parenzo è perbenista. Vabbè, quello perbenista. Perbenista proprio no, veramente. Perbenista no. Sei come Stefano da Catania che ti senti offeso e vuole denunziare il Gay Pride. Poi lei, scusi, Stefano, chi vuole denunciare alla fine? Uno per uno, oppure gli organizzatori? Chi io ho scattato delle foto. Ha scattato delle foto, dunque attraverso le foto. E dunque gli ho mandato dai carabinieri. E i carabinieri sono fatti due risate, però, una pernacchia hanno fatto. Sono fatte due risate. Vabbè, ti credo. Cioè, hanno visto, guarda che culo, guarda che uccello, guarda che pisello di fuori. Vabbè, lì se... Ma lei veramente vuole denunciare questi qua? Sì, per me è una cosa normalissima. Beh, ma scusi, altre volte ha denunciato? Ma secondo lei, per esempio, è normale? Qualche anno fa a Messina hanno proiettato con un proiettore delle minchie finte nella chiesa di Messina. Che cosa hanno fatto, scusi? Hanno con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Vabbè, sai, questo... Allora, mi avvertono dalla premiazione di Davide di Donatello che il signore, l'autore meraviglioso Ruffini, Paolo Ruffini, ci ha citato sul palco. Dove? Della premiazione di Davide. Ma in onda sulla Rai quella roba? Sì, ma è una cosa spettacolare. Mi informa la meravigliosa Marta Cagnola, quindi Radio 24, che Paolo Ruffini ci ha citato sul palco di Davide. Ma a che proposito? Ma non ti preoccupare, sempre in cose positive, non ti preoccupare, non sono tutti, non pensano tutti, non pensano tutti che siamo dei pericolosi razzisti, no, fascisti, propagatori di odio, capito? Non sono tutti come gli amici tuoi, capito? Ma gli amici miei non ci sono amici miei, ci sono persone che pensano e persone che... E io come loro Allora, c'è Vito Calun. Vito Calun, come si chiama? Calun, che scrive peraltro sul quotidiano. Ha detto, su Yonghi Lavarini ha ragione Cruciani. Da ebreo credo che far parlare un tizio del genere sia educativo. Punti di punti, non so se ci sta prendendo in giro, ma io sono d'accordo con lui. A parte che lo conosco. Ma sono d'accordo con lui. Però vedi, sai su cosa sbagli tu? Su che cosa? Dimmi. Domanda ai matti chiunque. Cosa? Dimmi cosa. L'idiozia. Sì, sì. Cioè etichettare le persone in base a quel che sono. Vabbè, ma Vito Kaklun ebreo. Guarda vabbè, cosa ma no, detto. Ma l'ha detto lui che è ebreo. Ma l'ha detto lui. Più stupido. che si possa ma fare. Ma guarda che allora dai stupido al tuo amico. Allora questo tizio qua ha detto sugli onghi lavarini ha ragione Cruciani, da ebreo. No, ma l'ha detto lui da ebreo. Vabbè, basta, non ti voglio più sentire dopo questa cosa. Siamo come lei, siamo come lei. Hanno con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Questa cosa qui va approfondita. Stefano da Catania, che non sopporta il gay pride perché dice che ci sono delle schifezze pazzesche, denuncia anche quest'altra stortura. Beh, secondo lui però. Che hanno proiettato. Sì, effettivamente se fosse accaduto questo. Fosse accaduto. Sono cattolico, però. Non c'è dubbio. Fosse accaduto questo, cioè che proiettano delle minchie finte sul Duomo di Catania. Adesso io non lo so, effettivamente non dico che sarebbero da denunziare i signori gay di Catania, però insomma. Siamo lì. Stefano hanno con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Cioè, ho capito, Stefano, ci sei ancora o no? Sì, ci sono, ma questo è successo l'anno scorso comunque. L'anno scorso, beh, adesso io non me lo ricordo bene. Cioè, che tipo di minchie finte proiettavano? Cioè, erano proiettate con un proiettore. Vabbè, ma era così per attaccare per la chiesa. Dico per Goliardia. Cioè, ma era proprio ma tante minchie com'erano? Distribuite bene, com'erano? Stefano, mi racconti? Erano proiettate con il laser, tipo con il proiettore laser. No, ma dai, su, non è possibile. Fatemi delle foto. Cioè, con il laser proiettavano delle minchie finte sul Duomo di Messina. Lo cerchi su YouTube. Cioè, tra l'altro, il parroco di Messina aveva contestato anche questo avvenimento. E allora? E niente, questo volevo dire. Io dico, quest'anno devo chiamare a Cruciani per sfogarmi alla zanzara. Perché dice che è una porcheria tremenda tutto quello che succede. Sì, per me sì. Poi dico, porta un sacco di gente, porterà marketing. Dico, beh, vi porta anche dei quattrini a Catania. Sì, questo sì. Però lei certe scene non le può vedere, culi di fuori, vero, però, culi sì. di fuori. No, ma lui non parla adesso delle minchie proiettate, sta parlando dei culi di fuori. Cioè, lei quando vede troppi culi. Ma scusi, quando vai in spiaggia non vedi i culi uguale? Ma non è la stessa cosa. Se lei cammina, dico, in centro con il culo di fuori, dico, andrebbe denunciato, penso. Vabbè, ma sì, se vado normalmente, sì, se c'è un carro allegorico, se c'è una processione, no, però. Che cambia? Dico, una strada è sempre una strada. Beh, ho capito, vabbè. Però c'è una manifestazione che fa un po' della, se vuole, della, no, che fa dell'esibizionismo, che fa della, no, del... E non c'è il carnevale. Vabbè, ok, è una specie di carnevale gay quello là, è un carnevale omosessuale. Ok. Così, si arrenda. Comunque guardi che la storia delle minchie finte era straordinaria. Grazie. Ammazza la zanzara. Oh ragazzi, io voglio sapere e avremo un giudice particolare quale imitazione dell'ex ministro della giustizia Cancellieri vi piace di più. Diciamo subito una cosa. Noi della Zanzara abbiamo inaugurato la serie delle imitazioni del ministro Cancellieri. Questa è la premessa. Questa è la premessa. Allora, si è esibito anche Gabriele Albertini, il mitico Albertini. Sentiamo. Io adesso non sono più il ministero di Grazia e Giustizia perché mi hanno rifatto ritornare una signora di 70 anni in pensione, ma tutto sommato mi trovo abbastanza bene. Devo poi fare una dichiarazione che uso questo spazio pubblico per poterlo fare. Quelle telefonate agli ingressi non le facevo io, le facevo Albertini. Questo è Albertini. Poi c'è il nostro Andro Mercù. Io, come sapete, sono una persona limpida, cristallina, ma trovo una condotta irresponsabile, inammissibile per la di Frandelli. Ma bello mio, come si fa a lasciare a casa adesso, senza la punta della magica Roma? Che poi questo ragazzo Mattizza, con questa barba in conta, con questo petto villoso, quanto mi piace. Andro Mercù, poi c'è Fiorello, il terzo. Fiorello, anche lui si esibisce con la Cancellieri. Se un domani vi dovessero ingabbiare e vi dovessero dare un permesso premio, per favore non scappate. Se no vengono da me e allora è male. Su, faccio un appello a quelli che sono scappati. Sì. Riconsegnatevi, brutti mi dava mignotta. Riconsegnatevi, che se no se la piano con me. È in collegamento, non so da dove, il ministro Cancellieri in persona. Buonasera, ministro, anzi, ex ministro, buonasera. Buonasera. Allora, ministro, ha sentito, ormai soprattutto imitata quando non c'è più, però, è una cosa strana, cioè non c'è più, nel senso, per carità, ministro, volevo dire, non c'è più, nel senso... Meno male. guarda, qui bisogna toccare ferro. Eh sì, tocchi ferro, anche altre cose. Se vuole, anzi no, lei no, perché non può toccare niente. Però scusi, ministro, allora, Albertini l'ha sentito, no? Diamo un voto ad Albertini. Ma guardi, più che voto, io posso dire semplicemente che è molto simpatico, perché si rimette costantemente in gioco, visto anche il suo ruolo istituzionale. Vabbè, ma com'è l'imitazione? Ma l'imitazione simpatica, buona, insomma. Buona, buona. Mercù. Mercù, devo dire che è quello più somigliante, ma anche quello più pericoloso. Ah, lei dice... Ho detto che pure mio carissimo amico Luigi Zanda c'è cascato. Sì, c'è cascato, non c'è quindi dubbio. Bravo, ma basta. Bravo, ma basta. Fiorello? Fiorello è quello più divertente, che gronda comicità. Però è troppo caricaturale, cioè lontano dalla realtà, no? Posso dire una cosa? Sì. Ascoltando queste imitazioni, l'effetto per me è mortificante, sono allibita. Perché? Ho subito quasi una crisi di rigetto della mia voce, sembra orribile. Devo dire che sono rimasto un po' così. Comunque mi sono divertito molto, tutti estremamente bravi, diciamo, quello più pericoloso e somigliante questo vostro imitatore. Sto Mercù. Vabbè, ecco. grazie buonasera, ministro, grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie. Oh, che succede? Che succede nel mondo della pubblicità? Beh, succede, caro Parenzo, che dai tempi di Barilla, dove poi nessuna delle aziende fece quello che avevano annunciato, cioè gli spot con le famiglie gay, no, nessuno lo fece. L'hanno proclamato, l'hanno detto, poi nisba, nulla. Stavolta che succede? Che in realtà c'è la Findus che ha prodotto questo spot, che ovviamente non potete vedere adesso alla radio, ci sono le teste tagliate, ma è praticamente uno spot incentrato su un rapporto omosessuale in cui ci sono due ragazzi che vivono insieme, invitano la madre, sentite. Findus Quattro Salti presenta microonde e gustose sorprese. Allora, Luca, qual è la sorpresa? Ce ne sono tante. Taglioline al microonde. Questa sì che è una sorpresa. Luca mi ha detto che è il suo piatto preferito. È veramente delizioso. Merito del microonde. E della piramide. Mamma, c'è un'altra piccola sorpresa. C'è anche il risotto. Che profumino. Gianni non è solo il mio coinquilino, è il mio compagno. Tesoro mio, l'avevo capito. Ed è un ottimo cuoco. Grazie, signora. Findus, il sapore della vita. Ma posso dire una cosa, Parenzo? A me pare veramente una puttanata. Cioè, allora, se lo dovete fare, fatelo fino in fondo. Cioè, se è veramente scritto dal mondo dei pubblicitari, ma non lo sai qual è quell'altra novità? Che io, cosa che lo sai che hanno detto? Che io e me siamo. Ma il mio compagno. L'avevo capito. Ma era meglio parlare dei bastoncini Findus. Ma dai, su, dai. Mario Adinolfi è con noi. Ciao Mario. Tutta colpa vostra, è tutta colpa vostra, questa è la verità. Eccolo qui, il mitico. Ma che colpa nostra, Mario? Adolfi, grandissimo, uno dei più grandi. Barilla non vi parla più, faceva dei belli spot con la famiglia che portava, la mamma portava i rigatoni al tavolo. E Ma sai perché io ti voglio bene? Perché sei un vero reazionario. Ma non è reazionario manco per niente, secondo me. Io sono un rivoluzionario. No, tu sei come tu sei un adorabile, tu sei adorabile, ma un adorabile reazionario. Vabbè, scusa, ma non ho capito una cosa, ma uno che vuole la famiglia normale non è reazionario, no, è uno non che è la pensa normale. Ma vuole una lui ha come modello la famiglia normale, no, punto. Mario, basta. Con cui polemizziamo. Ma non avete capito che lo spot della Findus spiega tutto, ragazzi? Cioè, in che senso? Che se tu vuoi rappresentare quella roba lì come uguale all'altra roba, una cosa uguale, tutta la stessa cosa, tutta la vacca, come diceva Hegel, le vacche, la notte in cui tutte le vacche. Vabbè, se non volare alto. Ti riesce una schifezza. Perché non c'è bisogno di rappresentarlo? Non è così, sono cose diverse, non c'è male nel fatto, niente di male nel fatto che siano diverse. Ma scusami, ficcatevelo bene in testa, sono cose diverse. Ma che siano diverse non c'è dubbio, taglio surgelato è il tuo piatto preferito e lui deve pure rispondere grazie signora perché sei un grande cuoco, se ne esci fuori con una serie di cazzate, perché è solo una serie di cazzate, una dopo l'altra in 30 secondi, ma come fate a non capirlo? Se tu vuoi fare scattare la fotografia di una cosa che è diversa da quell'altra nella maniera identica, non ci riuscirai mai, non lo puoi fare perché sono cose diverse. No, però scusami un attimo, ma sai perché diverso. No, però scusami Mario. Diventa grottesco? grottesco esattamente per questo motivo, perché invece non è diverso, è grottesco perché viene fatto diventare diverso. In realtà, siccome è la normalità e ci sono un sacco di famiglie così, diventa grottesco perché non ci sarebbe bisogno, ragazzi, di rappresentarlo. Voi trasmettete da Milano, vero? Voi trasmettete da Milano. Io da Napoli. Milano. Quanti pubblicitari conoscete? È gente veramente sveglia, no? Sì. I pubblicitari sono gente che toma col pelo sullo stomaco grosso così. Per arrivare a scrivere uno spot così brutto, ma così brutto, vuol dire che il materiale che gli hanno dato in mano era un materiale falso, era un materiale... Che vuol dire materiale falso? Scusa, che vuol dire materiale falso? Dovevi rappresentare questa vicenda come una vicenda analoga al fatto che Mario ti presenta la mia ragazza nella stessa identica maniera. Va così? Vabbè, ma sì, ma beh, certo, va così. Ma sono cose diverse. Hanno sbagliato loro a fare lo spot, ma che siano cose diverse, no? Ma non è che hanno sbagliato, è proprio materiale che viene da far rappresentare. Cioè, i fidanzati uomo e donna sono diversi da due fidanzati uomini? Certamente, ma non ti risulta questo? Io no, ma certo che mi risulta nei fatti. È nato un figlio, capisci? Mi è capitato di fare l'amore, ogni tanto succede, sì. E mi è nata una bambina di 3 anni e mezzo. Ora, questa cosa qui, sì. Come si chiamano loro? Luca e Charlie, i due della, sì, della cosa, non lo riescono a fare, non c'è niente da fare, è inevitabile. No, l'amore riescono a fare il figlio, ma non riescono a fare il figlio. Ora, vabbè, questa cosa questo, qui è ineliminabile come diversità. Chi la vuole eliminare? La suocera che va a pranzo da quei due, inevitabilmente, pensando che quell'amore non sia fecondo, un cruccio ce l'ha. Vabbè, ma il cruccio uno ce lo può avere. Che non è inevitabile. Vabbè, no, io non ho capito, però questo cosa ti porta a dire? La conclusione di questa roba qual è? Che le due cose non sono paragonabili, e siccome non sono paragonabili non si può fare quella cosa egualitaria che vuole David Parenzo, che metto male. No, io non la voglio, guarda. Matrimonio, quello che il matrimonio non è. Scusami, matrimonio non è, e dunque non lo puoi chiamare così, perché le parole hanno un senso. Ma scusa, parliamo di un'altra cosa. Tu che hai visto sfilare a Roma, abiti a Roma il Gay Pride, che effetto ti ha fatto? Sì. Cioè, che effetto ti ha fatto? A me è sembrato molto, insomma, terrificante per certi versi. Terrificante? Che è successo? Ma insomma, non lo so, la carnevalata del Gay Pride, non riesco a capirla. Poi mi sono così un nuovo fissato. Io mi sono andato a leggere il documento politico del Gay Pride. Il documento politico adesso hai fatto, ti sei voluto fare male. Era interessante. Che volevano quelli per strada? Volevano il matrimonio, che non si può fare, perché lo spiega pure lo spot della Findus. Volevano il riconoscimento dei poliamori, che sarebbero più o meno, famo la truppata 4-8, e volevano figli e uteri in affitto. E per strada andavano con tette di silicone e parrucchia gialla. Era bello? Era stato bello? Io la bellezza non l'ho vista. Ma è una cosa di grande... Io ho fatto la sentinella in piedi, e ho visto uno nudo al Gay Pride con sopra scritto una freccia e diceva sentinella in culo, capito? Questa era la testa del Gay Pride, insomma. Com'era, Mario? Com'era la cosa? La sentinella in culo, con la freccia che indicava il culo. È una cosa, questa era la loro reazione. I reazionari sono loro, i reazionari siete voi, adesso siete voi, guardate le cose che non ci sono. L'errore più clamoroso lo fai dando tutta questa enfasi a cose, caro Marione Adinolfi, che esistono già nella società. Fattene una ragione, due uomini si amano. È vero. Basta, è così, Mario, cioè, aspetta ragazzi, non c'è tempo per fare un discorso lungo su questa roba qua. Abbiamo già dato una, voglio chiedere un'altra cosa a Mario Adinolfi, che è questa. Ho letto una notizia oggi sul giornale in cui c'era una coppia, prima uomo donna, l'uomo praticamente si è fatto tagliare l'uccello e si è trasformato, diciamo, in una donna. Erano sposati. Secondo l'Italia praticamente non sono più sposati, sono separati adesso. Loro dicono no, il matrimonio esiste ancora, che me frega se quello si è fatto cioè quella dice a me, io mi sono fatto tagliare l'uccello, sono diventato, diciamo, una donna. Il matrimonio fra persone dello stesso sesso, cioè decade in quel modo, decade il matrimonio. Non c'è, è certo che decade, è ovvio, il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna, è così. Ho non capito, è eliminabile, ma questo elemento è una norma, oltretutto è pure una legge di natura. Cioè, quelli vogliono restare sposati, probabilmente per motivi economici, adesso non so, vogliono restare sposati, sono ancora innamorati. Potevano farsi tagliare l'uccello. Ma se quello si vuole fare tagliare l'uccello, faglielo tagliare l'uccello. Non è obbligatorio farsi tagliare l'uccello. Perché deve essere libera ogni follia? Scusate, Mario, perché se tagliare l'uccello è una una grande libertà, un trionfo della libertà di tagliarsi l'uccello. Ma che stai a dire, Giuseppe? Ma che dici? No, ma scusa, ma se è prevista la possibilità di farsi tagliare l'uccello e di diventare donna, uno potrà farlo o no? Non è bellissimo? Lo fanno che i ragazzini di 5 anni, adesso fanno cominciare a fare tutti quanti. Come ragazzini di 5 anni? Quei ragazzi di 5 anni era maschio ma si sentiva femmina, allora l'abbiamo cominciato a chiamare come una femmina. Ci sono i video che girano su internet. Vabbè, ma quella... sono tutte pregnanze, sono tutte cose. Cioè tu proibiresti senso. La possibilità di farsi il cambio di ma fare il cambio di sesso? Niente, il cambio di sesso. Niente, ragazzi, però almeno se uno si taglia il pitello dopo non pretenda di avere il matrimonio dal stesso sesso utilizzandolo come cavallo di Troia per risolvere un problema legale. Quello importante. Pure da un certo allora, punto di vista, Parenzo, se uno si taglia l'uccello non può rimanere sposato. Io da un certo punto di vista. Ma io adesso non so, ma uno vuol tagliarsi. Va bene, no, però adesso ragionando. Ma almeno lo Stato entra in queste robe, meglio è. Se Adinolfi è così attento da voler fare addirittura un censimento di chi se lo taglia e chi non se lo taglia. No, il censimento. Allora è nato un caso. Lui cambia sesso, nozze annullate. Noi vogliamo restare sposati. Dice Adinolfi, se ti sei tagliato l'uccello, come io ho detto, adesso non puoi pretendere che però resti in piedi il matrimonio. Dice Adinolfi. Tu Parenzo che dici? Hai cambiato dalla pigli in quel posto, diciamo, poi adesso anche questo magari. Ma adesso non mi pare, come dire, una delle priorità del paese quella di dover normare una situazione come questa. Tra l'altro per la Chiesa sono sposati, perché ovviamente è un intervento chirurgico. Chi è che mi chiama qua? Chi è? Che ne so, chi è? Chi era? Ah, veramente, ti richiamo tra 5 minuti che finisco la radio. Beh, grazie, pazzesca, ciao. La radio in diretta. Si separano pure se ti iscrivi su Facebook con Tizia con Caia, adesso ti dagli l'uccello e non c'è la separazione, dai, mettiamo le cose nell'ordine naturale delle cose, però sembra che almeno questo me lo possiate concedere voi rivoluzionari. No, devo dire la verità, se sono sposati, mi sono convinto di una cosa, se sono sposati, restano sposati anche se uno si taglia l'uccello, restano sposati. Non è vero, non ci credo. Sì, alla fine è così, sono arrivato a questa conclusione, sono sposati, ma che gli frega lo Stato di dire no, non sei più sposato perché ti sei tagliato l'uccello, e vogliono rimanere sposati e rimanessero sposati, e chi se ne frega, lo faranno perché è meglio vivere in due, le tasse, appunto, le agevolazioni, appunto. E lasciamoli vivere in pace, caro Mario. Non ti tagliare l'uccello, no, io no, per carità, mi fa fastidio. Ciao. Non prendere esempio, ciao. Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così fa cagare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Gianni non è solo il mio coinquilino, è il mio compagno. Tesoro mio, l'avevo capito. Viva i frasi! Radio 24. La passione si sente.